Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Le 21:02 minuti, una buona serata dalla redazione Dan Rita D'Ambrosio per questo appuntamento, l'ultimo di questa settimana di Effetto Notte. Come sempre partiamo dai ringraziamenti, un ringraziamento in redazione a Cristian Goldoni e Mariella Roberto, in regia a Gianmarco Ferronato. Un saluto a Roberta Giordano che questa volta è vero, torna lunedì prossimo con voi. I titoli della puntata di oggi: Lupi, mi dimetto, lascio a testa alta, non sono indagato. Renzi precisa la sua è una scelta politica, a me interim ma per poco. Salvini, esponenti del nuovo centrodestra in uscita, guardano alla Lega ad Alfano sul Lupi squallore politico. Circolare dell'INPS, dal 2016 l'età della pensione sale a 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più. Nello Yemen attentati e suicidi in due moschee sciite, 137 morti. Tunisi scende ancora in piazza, no al terrorismo. Riapre Villa dei Misteri a Pompei dopo 2 anni di restauri. E allora questi sono i titoli della puntata di questa sera. Partiamo però purtroppo ancora dal terrorismo. Dopo l'attentato di Tunisi non è possibile escludere azioni emulative in Italia. È quanto scritto in una circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nella quale si invitano gli organismi di sicurezza a sensibilizzare ulteriormente le misure di vigilanza alle sedi diplomatiche e dai siti sensibili. Oggi l'ISIS è intanto tornato a colpire nello Yemen. Dopo i boati restano le macerie di un venerdì di preghiera, resta lo strazio dei corpi, la distruzione delle moschee e soprattutto la confusione. La confusione che domina da mesi nello Yemen, ultimo bersaglio di una strage firmata dal califfato. Due attentatori si sono fatti saltare in aria nel cuore di Sana'a, capitale del paese, prima nella moschea di Badr, mezz'ora dopo in quella di Ashush. Tra le rovine degli edifici pieni dei fedeli sciiti si conteranno poi 137 morti e decine sono i bambini. Quasi contemporaneamente altri attacchi uccidevano altre 16 persone a Sada, altra roccaforte sciita. Secondo Al Jazeera, nel duplice attacco della capitale sarebbe morto anche lo sceicco guida delle tribù Houthi, Murtaza al-Maturi. Gli attentati sono stati rivendicati dallo Stato Islamico, che si è imposto anche in Yemen, nonostante la presenza fino ad ora prevalente, come segnala l'intelligence, di Al-Qaeda. Di sicuro il paese è da mesi spaccato tra un nord controllato dagli sciiti Houthi e il sud che si rifà al presidente deposto Mansour Hadi. E il caos favorisce la propaganda del califfato, che con questi attentati fa un salto di qualità e per la prima volta attacca i fedeli, facendo cadere nel vuoto anche l'ultimo appello alla moderazione del segretario generale dell'ONU. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi manifestazione a Tunisi contro il terrorismo. Sono intanto tornati in Italia i turisti coinvolti nell'assalto al museo. Ci avevo le spalle alle spalle, non vedevo l'ora di arrivare a casa. Stavamo per entrare al museo, sì. No, non era il museo. Hanno trovato molti giornalisti all'aeroporto di Genova, oltre che l'abbraccio di parenti, amici, i passeggeri della Costa Fascinosa che hanno scelto di interrompere la crociera e rientrare a casa. La compagnia, così come ha fatto MSC, una volta Palma de Mallorca ha messo a disposizione di chi desiderava rientrare voli charter verso diverse destinazioni. Dei passeggeri della Costa Fascinosa in 300 hanno preferito scendere, di loro 150 italiani che hanno poi volato su Genova, Roma, Palermo. C'è chi racconta di un inferno, di spari e sirene, chi di nascondigli provvidenziali, chi preferisce non parlare. È troppo il dolore per chi non ce l'ha fatta, soprattutto tra i dipendenti del comune di Torino, accolti al loro arrivo dal sindaco Fassino. Abbiamo lasciato due colleghe e abbiamo lasciato altri dei feriti. Sei affranto. La Costa Fascinosa ha contato tra i suoi passeggeri 5 vittime e 8 feriti. Ancora peggiore il bilancio della MSC Splendid, che è arrivata al porto di Barcellona con 25 persone in meno. 9 di loro hanno perso la vita al Museo del Bardo, 12 sono rimaste ferite, 4 i dispersi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di sicurezza dopo l'attentato a Tunisi si è discusso oggi al Consiglio Europeo di Bruxelles. Sul tavolo la sicurezza insieme al dossier Grecia. 2 miliardi di ossigeno alla Grecia per ridare fiato alle disastrate casse di Atene, anche se sotto forma di fondi europei non utilizzati, con lo scopo di fronteggiare la crisi umanitaria in atto nel paese. L'Europa tende la mano ad Atene dopo il vertice notturno ristretto che ha permesso di calmare le acque, imponendo al governo Tsipras di fare sul serio stavolta con le riforme se non vuole vedere il paese fallire e uscire dall'euro. Il presidente della Commissione Juncker ha precisato che i 2 miliardi non sono un regalo alla Grecia, ma fondi utili a sostenere la crescita e la coesione sociale. Indirettamente però è chiaro che alleggeriranno la voce uscita del bilancio bilancio pubblico ellenico, permettendo a Tsipras di concentrare i pochi fondi disponibili sul pagamento di debiti e interessi ai creditori. In conferenza stampa Tsipras ha negato che il suo paese abbia problemi di liquidità, aggiungendo che non ci sarà una quinta revisione dell'ex Troika né ulteriori misure di austerità. Protagonista della seconda giornata di vertice anche la politica estera, i 28 leader europei hanno condannato lo scioccante attentato contro la Tunisia. Il presidente europeo Tusk e l'alto rappresentante Mogherini visiteranno Tunisi a fine mese. L'Unione intensificherà la cooperazione con la Tunisia contro la comune minaccia terroristica e per sostenere il paese, ha aggiunto Tusk. Da parte sua il premier Renzi ha parlato di minaccia globale riferendosi al terrorismo e ha aggiunto: chi ha detto che bisogna chiudere le frontiere ignora che questa vicenda è accaduta fuori dalle nostre frontiere. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo avete sentito nei titoli: dal 1 gennaio 2016 per andare in pensione occorrerà aspettare 4 mesi in più. È quanto chiarisce una circolare applicativa dell'INPS di un decreto del Ministero dell'Economia sull'adeguamento previsto per legge dei requisiti previdenziali all'aspettativa media di vita. Il prossimo aggiornamento scatterà nel 2019. La politica, perché no? Credo che Lupi abbia lavorato già bene come assessore a Milano, è una persona che ha sempre avuto forte consenso e sono convinta che uscirà a testa alta da questa vicenda. Così la coordinatrice lombarda di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano dell'ipotesi di candidare a sindaco di Milano nel 2016 proprio il dimissionario Lupi. Stamani, come preannunciato, il ministro si è dimesso. Lascia a testa alta per tutelare la famiglia, per rivendicare il ruolo decisivo della politica, lascia pur non essendo indagato. Maurizio Lupi si dimette da ministro delle infrastrutture dopo lo scandalo delle intercettazioni con il manager Ettore Incalza. Lo annuncia nell'aula di Montecitorio, lo conferma ufficialmente a Palazzo Chigi nel pomeriggio. Lascio il governo a testa alta, guardandovi negli occhi, continuerò a fare il mio dovere, come è giusto farlo in Parlamento. Onorevoli colleghi, so che il tempo sarà galantuomo. Spero sia altrettanto galantuomo in chi oggi ha speculato sul nulla. Mi sono dimesso, prosegue Lupi, a 72 ore dallo scandalo, non dopo 72 giorni. Non ho mai fatto pressioni per far lavorare mio figlio. La mia richiesta era solo per fargli incontrare una persona di grande esperienza come Ettore Incalza. Poi non manca una sferzata contro i giovani deputati 5 Stelle che avevano presentato una mozione di sfiducia nei suoi confronti. A voi giovani deputati, che urlando mi avete insultato in questi giorni, vi auguro di non trovarvi mai dentro a bolle mediatiche difficili da scoppiare. Lupi diventerà probabilmente capogruppo alla Camera al posto di Nunzia De Girolamo, mentre sullo scambio di ministeri il nuovo centrodestra dice no a quello delle regioni e Gaetano Quagliariello ribadisce che il partito non accetterà penalizzazioni rispetto a quanto ha perso. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il suo è stato un gesto di grande dignità. Noi siamo garantisti, non basta un avviso di garanzia per chiedere a qualcuno di dimettersi e lui non era neppure indagato. La sua è stata una scelta mossa da motivazioni di opportunità politica. Da Bruxelles Matteo Renzi commenta così il passo indietro di Lupi per la successione al Ministero delle Infrastrutture. A circolare in queste ore sono i nomi di due degli uomini più vicini al premier, i sottosegretari Del Rio e Lotti. Renzi fa comunque sapere che per qualche giorno terrà lui l'interim e si dice sicuro che la vicenda non peserà sul cammino delle riforme. Non vedo nessuna conseguenza di natura politica sull'azione del governo, vedo il desiderio di continuare nel percorso di riforme che andrà avanti e a cui darà una mano anche Lupi, non più come ministro, ma come parlamentare. Dall'opposizione Forza Italia intanto accusa Renzi di aver sacrificato Lupi per i suoi fini. Dopo la mozione di sfiducia presentata a Siamassel, esulta invece il Movimento 5 Stelle che chiede a Lupi di restituire ora i compensi dell'ultima legislatura, mentre la Lega Nord attacca Alfano per Salvini. Da parte sua c'è stato squallore politico e umano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Italiani con il naso all'insù questa mattina, l'eclissi solare parziale ha aperto la primavera. Fotogramma dopo fotogramma abbiamo seguito l'eclisse solare in Italia parziale che segna l'equinozio di primavera, un evento rarissimo. Il picco massimo circa le 10:30, momento in cui più della metà del disco del sole è stato oscurato dalla luna. È stata totale solo in alcune regioni artiche, le isole Faroe e le Svalbard, invase da turisti super equipaggiati, ma da noi introvabili perfino gli appositi occhialini UV block, non perché esauriti ma neppure commercializzati, ci hanno detto ottici ed edicolanti, nonostante le raccomandazioni di esperti e oftalmologi di evitare l'osservazione diretta. Noi non avevamo previsto così una grande domanda e effettivamente non li abbiamo acquistati. E le persone si sono arrangiate anche all'ultimo. Con degli occhiali da sole. Meno male che me l'hanno prestati, perché sennò non avevo neanche questi. Punti di raccolta in diverse città, ma molti ci hanno detto di non poter fermarsi a vedere per la fretta il lavoro. No, in questo momento no. Sentiamo invece le ragioni di chi l'ha osservata insieme a noi, adesso come nel 1999. Bellissimo, eravamo sulla spiaggia e in quel momento, 10 minuti, è venuto un freddo terribile. Questo sta a indicare l'importanza del sole, no? Se avete perso l'evento storico, la prossima eclissi sarà visibile in Italia nel 2026. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani l'attesa visita del Papa in Campania, prima tappa Pompei, dove oggi è stata riaperta al pubblico la Villa dei Misteri. Il report dell'ispezione UNESCO parla di miglioramenti tangibili nello stato di conservazione degli scavi di Pompei, dove i lavori del grande progetto finanziato dall'Unione Europea procedono a ritmo serrato. 3 i cantieri conclusi, 13 quelli in corso, una sfida aperta che impone di spendere 105 milioni entro fine anno. Al momento sono stati rendicontati 7 milioni e aggiudicati i lavori per circa 65 milioni. A breve saranno appaltati anche i lavori per la sicurezza, compresa la videosorveglianza. Guardando al futuro, il ministro per i beni culturali Franceschini pensa alla possibilità di finanziamenti privati per il sito archeologico. C'è una legge in Italia, la nuova, l'Art Bonus, che prevede un incentivo fiscale molto forte, il 65% di credito d'imposta per le imprese o i privati che decidono di donare una somma, un importo, per il recupero del patrimonio pubblico. Quindi anche le porte di Pompei sono aperte per ricevere donazioni. E intanto apre ai turisti la parte più importante della Villa dei Misteri dopo 20 mesi di restauro della parte pittorica. Studi approfonditi e tecniche all'avanguardia hanno permesso di rendere perfettamente visibili i tratti dei disegni e vivi i colori rosso pompeano, ocra e il raro blu egizio. Lavori eseguiti grazie ad un finanziamento ordinario di 900.000 euro. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pompei. Chiudiamo con il calcio, con i sorteggi delle coppe europee. La Juventus pesca benissimo il jolly dall'urna per mano dell'ineffabile Kalle Riedle, che la condannò al dolore in una finale con la maglia proprio del Borussia Dortmund. Gita a Monte Carlo in primavera per la signora. Il Monaco, che insieme al Porto, preso dagli altri fortunelli tedeschi del Bayern, era l'avversaria più concupita. Comunque è andata a Torino e ritorno nel Principato mercoledì 22 aprile, l'ideale per organizzarsi un weekend lunghissimo per i tifosi della Juve, che non potranno però mettersi in valigia la maglia di Paul Pogba, rotto per un paio di mesi ed eventualmente arruolabile per una semifinale. Le altre due italiane da esportazione in Europa League, che pareva già nostra, si accoppiano con la Dinamo Kiev, la Fiorentina, e con il Wolfsburg, il Napoli. Ed è decisamente peggio per la squadra di Benitez. I tedeschi, che hanno fatto fuori l'Inter, hanno la bellezza della geometria e della corsa, il Napoli più talento. Sempre quanto alla Champions, ci sarà il remake della finale spagnola, derby Atletico Real Madrid e Paris Saint-Germain con l'incubo Barcellona. E all'andata in Francia Ibra e Verratti non ci saranno. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questi dunque i principali fatti di oggi, tra poco tutti gli approfondimenti, ma prima, come di consueto, ci aggiorniamo su strade e autostrade. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21 e 16 minuti, le notizie principali di oggi, al partire dal Viminale, che ha alzato l'allerta rischio emulazione dopo gli attentati a Tunisi. Tunisi che è tornata questa sera in piazza per dire no al terrorismo. Due degli attentatori, si è saputo oggi, sono stati addestrati in Libia. Terrore nelle moschee sciite nello Yemen, un kamikaze ha fatto una strage, 140 morti. E poi c'è la pagina politica con Lupi che si difende ma lascia, come aveva già anticipato nella giornata di ieri. Renzi precisa nessuna conseguenza per il governo e prende l'interim del ministero, annuncia un nuovo ministro. Alta tensione nel nuovo centrodestra dopo le dimissioni di Lupi. Salvini tenta i critici del partito: venite con noi. Circolare dell'INPS dal 2016, l'età della pensione sale a 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più. E poi c'è il calcio con l'urna della Champions che sorride alla Juventus, che ha pescato il Monaco in Europa League, e Napoli-Wolfsburg e Fiorentina-Dinamo Kiev. Questi dunque i principali fatti di oggi. Noi partiamo con gli approfondimenti che sono dedicati alle dimissioni di Lupi. Lo aveva già anticipato ieri in televisione ospite di Vespa, però oggi ha parlato in aula, lo ha fatto a Montecitorio con parole molto chiare. Allora ascoltiamo prima le sue parole e poi abbiamo un ospite importante. Ciò che mi chiama qui davanti a voi, doverosamente qui davanti a voi, non è una responsabilità giudiziaria, ma giustamente una responsabilità politica, per le scelte politiche che ho fatto alla guida del mio ministero e del ministero che mi è stato affidato. Quanto a mio figlio, ho detto e ribadisco che non ho mai fatto pressioni con chi che sia per procurare un lavoro a mio figlio. L'intercettazione strumentalizzata a questo fine, in cui chiedo all'ingegnere Incalza di vedere mio figlio venuto a trovarmi a Roma per dargli consulenze e suggerimenti, documenta invece che ho proposto a mio figlio, ingegnere appena laureato, come farebbe qualsiasi padre, la possibilità di incontrare una persona di grande esperienza che potesse consigliarlo nella scelta da fare. Lascio il governo a testa alta, guardandovi negli occhi, continuerò a fare il mio dovere, come è giusto farlo in Parlamento. È il nuovo centrodestra il protagonista della giornata politica dopo l'addio annunciato già ieri del ministro Lupi. È quasi certo che il ministro, il dimissionario Lupi, dovrebbe, quasi certo dunque, andare a guidare il gruppo a Montecitorio. Ma la poltrona è attualmente occupata dall'onorevole, che abbiamo in collegamento con noi, lo ringraziamo, Nunzia De Girolamo. Buonasera. Buonasera, io ovviamente apprendo questa notizia dalle agenzie di stampa, non ho sentito Alfano, non ho sentito nessuno nel mio partito che me l'abbia comunicato, ma credo che il tema non sia questo, né mi interessano le poltrone, anche perché ho sempre dimostrato nella mia vita che le istituzioni, la politica, gli amici, gli affetti, un partito vale molto di più di una poltrona. Ecco, però qualcuno non solo dice che Lupi starebbe per occupare la poltrona da lei occupata, ma addirittura che lei sarebbe in procinto, seconda nel nuovo centrodestra, a passare poi nella Lega. Questa è proprio fantapolitica? Ormai io ho capito che siamo in una fase politica molto complessa nella quale tutto può accadere, però mi sembra proprio che sia fantapolitica, nel senso che io sono per la ricostruzione del centrodestra, credo che il centrodestra unito è ciò che ci chiedono i nostri elettori e non penso assolutamente di andare nella Lega, penso piuttosto a chiedere al mio partito qual è la linea politica che intende assumere, perché Renzi ci tratta usa e getta, a me questo non sta bene e vorrei capire se siamo iscritti al Partito Democratico, se restiamo quel venticello di novità con il quale, che è lo spirito con il quale siamo nati e quindi se vogliamo rifondare un centrodestra unito. Lei chiede più autonomia dunque? Chiedo più autonomia perché su questa vicenda credo che Renzi sia stato all'altezza di se stesso, ha dimostrato di essere il giustizialista classico del Partito Democratico, oltretutto garantista con i suoi, giustizialista con gli altri, non ha avuto il coraggio del sindaco di Firenze che ebbe sulla cancellieri una posizione precisa, io non dico che non doveva far dimettere Lupi, ma doveva dirlo esplicitamente con il coraggio che mi aspettavo da un leader come lui, evidentemente Renzi non è più Renzi e credo che noi non possiamo iscriverci al Partito Democratico e che se siamo utili nel momento in cui ha problemi con la minoranza, se siamo utili nel momento in cui ha problemi con Silvio Berlusconi e col patto del Nazareno, poi dobbiamo essere rispettati e trattati con la dignità che merita un partito che consente di governare. Non mi pare che questo accada, non vorrei che ci abbia scambiato per dei maggiordomi. Quindi lei dice l'atteggiamento di Renzi è stato completamente sbagliato e invece Lupi, lei anche questo aspetto diciamo umano di questa vicenda Lupi, come lo giudica? Io credo che Lupi abbia fatto bene nel senso proprio individuale della sua scelta singola, noi siamo stati tutti al suo fianco, eravamo disponibili, io almeno lo ero, ad una battaglia anche alternativa, cioè della sua resistenza, però capisco che questi processi diciamo mediatici più che giudiziari, perché Lupi non è indagato, fanno male all'animo di una persona, credo che abbia fatto una scelta di dignità per se stesso e per le istituzioni e anche una scelta di moralità contro la doppia morale del PD. Le faccio un'ultima domanda, ho iniziato dicendo adesso che cosa accadrà nel nuovo centrodestra, ma se Alfano le chiedesse di fare un passo indietro per far occupare il suo ruolo a Lupi, lei direbbe sì? Cosa accadrà nel centrodestra? Io, come le ho detto prima, non sono assolutamente interessata alla poltrona, non sono attaccata ai ruoli, io faccio politica, la politica si può fare anche partecipando all'assemblea di un condominio. Non ho bisogno né di un ministero, né di una poltrona, né del ruolo di capogruppo per fare politica. L'identità è data da chi siamo, non da chi, da chi vorremmo essere o appariamo in base alla poltrona più comoda o più scomoda che, sulla quale sediamo. Per cui io onestamente non ho proprio problemi, credo che però il tema sia un altro: qual è la carta d'identità di NCD? Grazie, grazie mille, è stata molto chiara, la ringrazio anche per la chiarezza, buona serata. Arrivederci. Molto chiara, lo avete sentito, l'onorevole De Girolamo rispetto a questa vicenda relativa alle dimissioni di Lupi. Noi abbiamo e la ringraziamo un'altra ospite in collegamento con noi, la capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, l'onorevole Fabiana Dadone, buonasera. Buonasera a lei. Allora, lei ha sentito, insomma, ci sono strascichi abbastanza importanti nel nuovo centrodestra, anche se la De Girolamo ha ribadito che non intende lasciare, non intende passare eventualmente nel gruppo misto come ha fatto la Saltamartini, ma insomma Salvini fa un po' di campagna, insomma, ha detto che ci sono alcuni, l'aveva detto prima anche di voi, insomma, lo dice un po' spesso, questo lo dobbiamo dire. Però... Sì, vabbè, questa è una legislatura in cui tutti saltano da un gruppo parlamentare all'altro con notevole facilità, quindi non mi stupirei, però voglio dire, è una scelta che spetta e compete alla De Girolamo. Ma secondo lei, insomma, questa vicenda Lupi avrà ancora delle conseguenze? Oggi si era parlato, ma se non farà il capogruppo alla Camera potrebbe ancora essere candidato a sindaco di Milano nel 2016. Lei che idea si è fatta? Lei aveva presentato insieme al capogruppo al Senato dei 5 Stelle Cioffi la mozione di sfiducia. Certo, l'avevamo presentata perché di fronte a un'Italia dilaniata dalla corruzione, da una serie di situazioni che sono inaccettabili, ci siamo trovati di fronte a un ministro di uno dei ministeri più importanti di tutti, quello delle infrastrutture, coinvolto in una delle più grandi tangentopoli degli ultimi anni, quindi fatti di corruzione nuovi che sì, è vero, come dice la De Girolamo, non sono imputabili direttamente al ministro, ma sono avvenuti al di sotto della sua responsabilità, per cui stamattina abbiamo preso atto delle sue dimissioni, ma non ne farei con una questione etico-morale, dovrebbe essere assolutamente normale dimettersi in una condizione di questo genere. Per cui direi che ne abbiamo preso atto senza nemmeno tanto stupore. Che cosa vi aspettate adesso? Renzi ha preso l'interim, si parla di tanti nomi, anche di quello di Cantone, che probabilmente sta bene dove sta, insomma. Cantone direi che sta decisamente bene dove sta e direi che avrebbe anche bisogno di ulteriori risorse per riuscire a far funzionare meglio l'ANAC, perché è vero che l'hanno messo in un ruolo molto delicato e che gli compete moltissimo, ma è altrettanto vero che l'ANAC è molto depotenziata perché lavora con troppo poco organico, non solo a livello economico ma anche a livello di personale, per cui sarebbe buono che venisse invece rimpolpato l'organico dell'ANAC e gli fossero date più funzioni. Detto questo, chi andrà a sostituire Lupi non lo so, sicuramente questa azione rafforza Renzi all'interno del governo, perché chiaramente pone NCD in una situazione di svantaggio. Ecco, appunto, bisogna vedere se dovesse implodere il partito. Io le chiedo una cosa perché questo mi ha colpito proprio personalmente. Nelle parole di Lupi, che prima abbiamo sentito, lui ha detto: come ogni padre, mio figlio si è appena laureato e io gli vado a presentare questo pezzo grosso del ministero. Non funziona così. Mio padre non è venuto nemmeno quando mi sono laureata. Cioè c'è una generazione di padri che è un po' diversa, o no? C'è una generazione di padri decisamente diversa. Anche mia madre, quando mi sono laureata, non è riuscita a venire perché stava lavorando, per cui decisamente tutta un'altra situazione. E evidentemente il ministro Lupi non ha presente quali sono le situazioni di tutti gli altri giovani laureati coi voti eccellenti di suo figlio, che sono senza lavoro, che hanno lavorato per molti meno soldi rispetto al suo di figlio e hanno conosciuto personalità decisamente meno importanti, per cui francamente mi è sembrata una ringa difensiva decisamente triste. Comunque, insomma, la scelta Lupi l'ha fatta, non tutti l'hanno fatta in passato, quindi insomma questo dobbiamo prendere atto. Di questo ne prendiamo atto, però io vorrei che si facesse attenzione al fatto che non è stato nulla di incredibilmente bello, di incredibilmente responsabile, è un qualcosa di normale. All'estero capita costantemente che si dimettano dei ministri, ma anche solo per delle sciocchezze come aver rendicontato uno shampoo in più e averlo pagato col denaro pubblico. In Italia nemmeno di fronte a scandali spaventosi ci si dimette, per cui questa volta qua semplicemente il ministro Lupi ha deciso di farlo, ma è un qualcosa di assolutamente normale. Chi sbaglia sono tutti gli altri che non si dimettono nemmeno di fronte a situazioni eclatanti. Le faccio un'ultima domanda. Sì. Adesso l'Expo, insomma, ci siamo quasi, ma insomma ne abbiamo visti troppi di scandali. Ne abbiamo visti decisamente troppi e in merito all'Expo è una di queste grandi opere che era sotto la supervisione del ministro Lupi. Stamattina, quando è venuto a fare l'informativa in aula, ha parlato di quanto il suo ministero è riuscito a fare in tema di grandi opere, ma la realtà è che è vero che ci sono delle grandi opere che danno vanto all'Italia, che permettono, come dice il ministro Lupi, di raggiungere Torino o Milano in 45 minuti, ma tutto il resto dei sistemi di trasporto locale, che sono quelli che veramente interessano i cittadini perché sono servizi pubblici, sono andati completamente allo smantellamento. Quelle che sono le grandi opere, si sa, sono opere inutili e sono semplicemente opere che servono a bruciare denaro pubblico, ad alimentare la corruzione, perché si è visto col MOSE, si è visto con l'Expo e io sono piemontese, temo si vedrà anche col TAV di Chiomonte, quindi spero vivamente che non si faccia l'asse di queste tre grandi opere del nord, però mi pare che fino adesso sia stato così proprio perché purtroppo non c'è una volontà politica di lottare realmente contro la corruzione. E quello che ne hanno i cittadini è purtroppo un paese a pezzi, quindi francamente non mi sento nemmeno emotivamente dispiaciuta per quanto capitato al ministro Lupi, perché se vive l'Italia in cui vivo io non si può non essere reso conto di tutto ciò che le ruota della intorno. Situazione. Grazie, certo. Grazie alla capogruppo grazie del Movimento 5 Stelle alla Camera Fabiana Dadone, e noi ci fermiamo, ci aggiorniamo anche sul meteo che è interessante in vista del weekend. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:36 minuti, fatti principali di oggi. A partire dalle dimissioni del ministro Lupi, non sono indagato, lascio a testa alta, queste le sue parole alla Camera, interim Renzi, adesso Toto Ministri, c'è anche un'ipotesi Cantone. Alta tensione nel nuovo centrodestra con Salvini che tenta i contrari ad Alfano, venite con noi, ma la De Girolamo poco fa ad effetto notte precisa, non lascio, però il nuovo centrodestra deve cambiare, non dobbiamo essere i maggiordomi di Renzi. Circolare dell'INPS, dal 2016 l'età della pensione sale a 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più. L'allarme terrorismo kamikaze nelle moschee nello Yemen, oltre 140 morti, terroristi di Tunisi addestrati in Libia. E poi c'è il calcio con l'urna della Champions che sorride alla Juventus in Europa League e Napoli, Wolfsburg e Fiorentina, Dinamo Kiev. Queste dunque le notizie principali, approfondiamo in questa parte di Effetto Notte l'allarme terrorismo. Lo facciamo e lo ringraziamo in collegamento con noi con l'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti voi. Alberto, io partirei da questa circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza diffusa proprio stasera, che dice che dopo l'attentato di Tunisi in Italia non è possibile escludere azioni emulative. Ti ha spaventato? Cioè è prevedibile secondo te? Ma quando succede qualcosa di così grave nella casa del tuo vicino anche tu ti devi preoccupare, e oltretutto quando vengono colpiti degli italiani. Noi non sappiamo ancora esattamente quale fosse l'obiettivo dei terroristi, se il Parlamento e poi hanno ripiegato sul museo o se effettivamente volessero seminare il panico in uno di quelli che sono i simboli del turismo tunisino e quindi colpendo gli stranieri e quindi anche gli italiani. Ma è chiaro che questa circolare in qualche modo, come dire, capta quello che è il segnale d'allarme lacerante che è venuto da Tunisi con l'attentato di mercoledì. Insomma, è difficile poterlo ignorare. Certo, oggi Tunisi è scesa di nuovo in piazza per dire no al terrorismo, mentre lo hai sentito nei titoli, i terroristi erano stati addestrati in Libia, quindi insomma è una paura che aumenta. Beh, è una paura che c'era già prima anche di questo attentato, attenzione, perché i tunisini erano già scesi in piazza 2 o 3 settimane fa quando 4 agenti erano stati uccisi negli scontri con i jihadisti sulle montagne di Kasserine, lontano dalla capitale. Il salto della qualità di questo terrorismo è stato proprio quello di colpire al cuore Tunisi, ma i tunisini erano ben in qualche modo allertati su questo aspetto, su questo fronte. Consideriamo che dopo la caduta di Ben Ali nel 2011, per 3 anni il paese è stato percorso da gruppi jihadisti e salafiti che avevano issato anche la bandiera nera di Al-Qaeda all'Università Manuba, imponendo il velo alle donne, occupando le aule per mesi. I salafiti e i jihadisti avevano occupato anche alcune delle principali moschee del paese, c'erano state minacce, addirittura erano state bruciate le tombe dei santi musulmani perché espressione secondo loro di un islam miscredente. Beh, insomma, c'erano stati molti segnali e poi c'era un dato su tutti che era quello dei jihadisti tunisini che non si erano arruolati in Siria e in Iraq, circa 3.000-3.500, e poi la Libia di vicina che è esplosa nel 2013 con la guerra civile eclatante, disastrosa, dirompente, che poi ha creato anche il terreno anche lì per che emergessero gruppi affiliati al califfato. Insomma, certo, insomma, tu dici, certo, certo, l'analisi come sempre è puntualissima la tua. Alberto, ed oggi la nuova paura è arrivata nello Yemen, oltre 140 morti, adesso il numero non è ancora precisato. Beh, lo Yemen è un paese che si avvia purtroppo a passi precipitosi verso la disintegrazione, rischia di diventare un altro Afghanistan, perché qui ci sono in corso tre guerre almeno. Allora, il problema è cominciato già anni fa, dopo la caduta del presidente Abdullah Saleh, il paese non ha più ritrovato una sua stabilità e non solo, nel settembre scorso gli Houthi, che sono un clan sciita del nord, è sceso verso Sana'a, ha occupato la capitale, in gennaio ha sciolto il governo e il Parlamento e il deposto presidente Hadi si è rifugiato, Mansour Hadi si è rifugiato ad Aden nel sud, il paese si è quindi spaccato tra nord e sud come un tempo, ma ci sono diversi conflitti, uno è quello che oppone gli sciiti ai terroristi sunniti, che sono di due tipi, Al-Qaeda che è l'organizzazione più radicata e adesso anche il califfato che ha rivendicato questo attentato in due moschee di Sana'a facendo oltre 140 morti. Califfato e Al-Qaeda si vanno una sorta di concorrenza, ricorderete quando ci fu l'attentato a Charlie Hebdo a Parigi e ci fu una quasi contemporanea rivendicazione da parte di due gruppi e il segnale che anche lì avanza, però Al-Qaeda è ancora forte, è ancora fedele al capo Zawahiri che ha sostituito Bin Laden. Poi c'è un conflitto che oppone il governo deposto che si è rifugiato ad Aden ed è sostenuto dai sauditi con questo nuovo governo sciita sostenuto dall'Iran. Quindi abbiamo anche una guerra per procura, insomma tre conflitti in uno per un paese che rischia appunto di in qualche modo seguire la strada di tanti altri stati falliti. Una nuova polveriera, grazie all'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri per essere stato con noi. Noi però restiamo a parlare di Tunisia e dell'allarme terrorismo e lo facciamo e lo ringraziamo con il dottor Antonio Lombardi, amministratore delegato e fondatore del gruppo Ali, Agenzia per il Lavoro. Buonasera. Buonasera a tutti. Lei conosce e frequenta la Tunisia da tanto tempo, sin dal 1969. Che idea si è fatto di tutto questo? Lei si è occupato anche del settore del turismo, che poi è quello di cui la Tunisia vive. In effetti sì, diciamo che già nel 69 ero presente in Tunisia, in quanto all'epoca giovane direttore d'albergo istruivamo i partner tunisini che si affacciavano al turismo internazionale, partendo dall'isola di Gerba fino ai famosi Hammamet, Monastir, Sousse, che abbiamo animato e formato i futuri direttori e dirigenti del mondo del turismo tunisino. All'epoca la Tunisia ebbe un'intuizione giusta tramite il presidente Habib Bourguiba, il padre della patria, che aveva dato un impulso notevole al mondo del turismo, capendo che poteva diventare un introito principale per l'economia tunisina. Ancora oggi il turismo fornisce il 20% delle entrate. Dottor Lombardi, questo è un colpo al cuore pesante. Questo è un grande colpo al cuore e di cui l'Occidente ha delle colpe, perché come diceva il vostro precedente ospite, dei segnali c'erano stati. Se lei considera che la Tunisia diciamo ha dei partner commerciali come la Francia, l'Italia, la Germania, il Belgio e la Spagna, sono paesi che potevano avere interesse a prendersi cura di questo paese che praticamente è stretto fra l'Algeria e la Libia e che prima o poi sarebbe stato appetibile per quanto riguarda l'islamismo estremo che ci sta conducendo su un terreno minatissimo. E considerata poi che la Tunisia confina a 71 km da Lampedusa e al centro della Sicilia, vi direi che l'Italia poteva fare molto di più. Certo, può farlo ancora, ci aspettiamo che lo faccia, insomma, no? L'Italia di oggi non so se può farlo con tutti i problemi che abbiamo in casa. E i problemi che abbiamo in casa sono già gravi di per sé, però certamente la comunità europea può intervenire, perché l'Italia non costituisce se non il primo passaggio per poi invadere l'Europa, e se diamo spazio a questi estremisti e non aiutiamo la giovane democrazia tunisina, che ha dimostrato di voler essere lontana da questo estremismo, è pura follia dal nostro principio europeo. Ci sono tanti interessi italiani, tante imprese italiane che operano in Tunisia? Ci sono imprese italiane e direi che forse qualcuna già è andata via da tempo, perché i segnali sono già apparsi un paio d'anni fa con la rivoluzione del Gelsomino, e forse non so quanti ne resteranno ancora. Sicuramente il turismo subirà un tracollo, sicuramente molti prenderanno le distanze e cercheranno di spostare gli interessi in paesi più sicuri, e quindi sarà un grave danno per la Tunisia, ma dovranno fare un grande sforzo per essere di nuovo credibili, ma non lo potranno fare assolutamente da soli, perché sono troppo giovani e hanno bisogno di aiuto. L'ambasciatore in Italia parlava di un mini piano Marshall nei giorni scorsi, io direi che chiamiamolo come vogliamo, ma sicuramente bisognerebbe fare qualcosa per aiutare questa giovane democrazia che non ha voglia di essere isolata come gli altri paesi islamici. Grazie ad Antonio Lombardi, amministratore delegato e fondatore del gruppo Ali, agenzia per il lavoro, per essere stato con noi. Torniamo su Strade e Autostrade. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:47, domani sarà il presidente del Consiglio Matteo Renzi ad accogliere all'aeroporto di Ciampino le salme delle vittime italiane dell'attentato terroristico a Tunisi. Il tributo dell'Italia è stato il più alto, con le 4 vittime italiane. Gli altri croceristi, molti oggi, hanno fatto già rientro in Italia, hanno interrotto la vacanza ovviamente dopo quello che è accaduto. Oggi c'è stato un nuovo attentato nello Yemen, più di un attentato suicida in 2 moschee sciite. 137 morti e il bilancio ancora provvisorio. E poi oggi è stata la giornata delle dimissioni del ministro Lupi, lascio a testa alta, ha detto alla Camera non sono indagato, Renzi ha preso l'interim ma per poco, ha garantito. E poi c'è il nuovo centrodestra nel quale si discute dopo le dimissioni di Lupi, e Salvini tenta un po' i dissidenti. Da Alfano, dice ancora Salvini, su Lupi squallore politico. Circolare dell'INPS, dal 2016 l'età della pensione sale a 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più. Queste Europa 24 notte. L'arte della programmazione non è utile soltanto a chi vuole diventare informatico, ma aiuta a sviluppare la logica. Sono parole di Neelie Kroes, ex vicepresidente della Commissione europea, che per questo lo scorso ottobre ha organizzato la Europe Code Week, una settimana per promuovere la programmazione tra i più piccoli. Il servizio è della nostra Daniela Abruzzo. Entro il 2020 in Europa il 90% dei lavori richiederà competenze informatiche. Secondo una stima del sito Debating Europe, in 5 anni nasceranno 900.000 posti di lavoro che non potranno essere soddisfatti per mancanza di personale qualificato. Questo è uno dei motivi che ha spinto l'ex vicepresidente della Commissione europea, Neelie Kroes, a organizzare una settimana europea del codice, la Europe Code Week. 7 giorni, dall'11 al 17 ottobre 2014, nei quali è stata promossa la sperimentazione della programmazione nelle scuole. Una manifestazione che si è tenuta su tutto il territorio europeo. Si è riconosciuto che il pensiero computazionale ha dignità di disciplina di base, che quindi è utile non soltanto a chi da grande vorrà fare il programmatore, ma a tutti. E questo è avvenuto quest'anno, o meglio l'anno scorso, diciamo, con l'ultima edizione di Europe Code Week, cioè a partire da ottobre del 2014. E la partecipazione è stata straordinaria e l'Italia ha primeggiato nella partecipazione a livello europeo. Quello che avete appena sentito è l'ambasciatore italiano, Alessandro Boiolo. Il coordinatore di Scienze e Tecnologie dell'Informazione dell'Università di Urbino Urbino, fa parte dei volontari impegnati nell'opera di alfabetizzazione del codice. In Italia questo processo si sta realizzando soprattutto grazie alla piattaforma online Programma il Futuro, ideata dal Ministero dell'Istruzione insieme al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, un sito che ha permesso ai ragazzi di tutte le età e delle scuole che hanno deciso di aderire di sperimentare semplici esercizi di coding, come i bambini del maestro Stefano Merlo, della scuola elementare Copernico di Corsico, in provincia di Milano. Con questi comandi ci sono delle cose tipo un quadrato sul ghiaccio, però non fatto, e quindi noi lo dobbiamo fare con i comandi. Quando fate questo esercizio, fate vari tentativi per capire? Noi ragioniamo, poi vediamo se la nostra, se il nostro ragionamento è giusto, e vediamo se è giusto. E poi se, poi se sbagliamo, lo rifacciamo. Nonostante i passi avanti, il coding non fa parte del programma didattico delle scuole italiane, ma è ancora una materia extracurricolare. La programmazione però è una delle priorità della buona scuola e si spera in un futuro abbia il suo giusto spazio. In attesa della riforma, pare che il MIUR per includere l'insegnamento informatico stia prendendo spunto dal modello anglosassone, dove questa speranza è già realtà, come ci spiega Yasemin Alsop, ambassador del Regno Unito per la Europe Code Week. In the UK we had support of the government. Nel Regno Unito abbiamo avuto il supporto del governo che condivideva l'importanza dell'informatica e questo ci ha aiutato a modificare il piano didattico e inserire il coding in un corso che si chiama Computing. Il percorso sarà accessibile per i ragazzi delle elementari e delle medie. Siamo all'inizio di un viaggio molto eccitante e dobbiamo dire grazie a quelli che hanno reso possibile tutto questo, all'intera comunità, insegnanti, genitori, studenti. I'm talking about teachers. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Siamo a Napoli, dopo il tributo di ieri di Napoli a Pino Daniele, che avrebbe compiuto proprio ieri 60 anni, domani Napoli abbraccia Papa Francesco. È una notizia importante, è molto atteso questa visita di Papa Francesco, 18 pagine speciali interamente dedicate a questa visita, domani sul quotidiano Il Mattino. E noi abbiamo in collegamento, e lo ringraziamo, il direttore del quotidiano Il Mattino, Alessandro Barbano. Buonasera direttore. Buonasera a voi e grazie a voi per aver segnalato le nostre 18 pagine. Allora, è un avvenimento che sta coinvolgendo moltissimo la città. Oggi pomeriggio leggevo proprio sul Mattino Online che ci sono state le prove, c'era tantissima gente in piazza del Plebiscito. Eh sì, la prova generale domani sarà certamente gremita piazza del Plebiscito fin dalle prime ore del mattino. La visita, come sappiamo, inizia a Pompei praticamente all'alba, poi il Papa arriverà a Scampia e intorno alle 9:15 dovrebbe iniziare il suo discorso a Scampia, dove risponderà ad alcune domande di alcuni testimoni speciali, e poi da lì si incamminerà verso piazza del Plebiscito, dove ci sarà la messa, poi da lì a Poggio Reale, come sappiamo il carcere di Napoli, da Poggio Reale andrà a riposare un po', poi al Duomo, dal Duomo alla Chiesa del Gesù, dove farà l'incontro con gli ammalati, e alla fine sul lungomare incontrerà i giovani intorno alle 5 alle 6 del pomeriggio, quindi una giornata pienissima e sono attese 1 milione di persone, un evento per un viaggio che non è un viaggio qualunque, è un viaggio che rappresenta una delle prime grandi iniziative di questo pontificato. E soprattutto forse una delle più importanti, se non la più importante iniziativa che il Papa assume in Italia, quindi un viaggio che si carica di un significato simbolico particolare, perché Napoli è un po' uno dei punti. Posso interromperla un attimo, direttore? Prego, da napoletana dei quartieri spagnoli, come sono io. Allora, questo Papa argentino, che è un Papa così vicino alla gente, innanzitutto è argentino come Maradona, e questo già è un elemento da napoletano, insomma, importante. È un Papa tanto spontaneo che potrebbe addirittura essere nato a Napoli, no? Io penso che la sintonia sarà immediata, certamente il Papa ha una capacità comunicativa particolare e questa città lo attende con la sua spontaneità, quindi sì, potrebbe essere nato a Napoli, il modo in cui lui comunica è certamente in consonanza con lo spirito di questa città, poi staremo a vedere quale sarà l'impatto, ma tutto lascia presagire che sarà un impatto di grande emozione. E di grande partecipazione, come solo Napoli sa fare poi in questi eventi. Sì, io penso che domani a Napoli non ci sarà solo Napoli, ma ci sarà la Campania, il Mezzogiorno e anche tanti fedeli giunti da ogni dove del paese. Però il viaggio assume un significato simbolico per quello che rappresenta Napoli, certo, in questo momento. Metafora di una periferia del paese che è il Mezzogiorno e di un'amnesia del paese che è il Mezzogiorno. Grazie. Cioè. Direttore, noi la ringraziamo il direttore del quotidiano Il Mattino di Napoli. Con la visita del Papa a Napoli si chiude la settimana di Effetto Notte. Restate con noi, tra poco ci sono gli aggiornamenti di GR24.